Sì, al momento, dal punto di vista documentale, ufficiale, siamo ancora alle decisioni del precedente governo, perché come risulta dal documento pluriennale della difesa, pubblicato con grosso ritardo ad ottobre, stanno andando avanti solo le decisioni prese prima. Non sappiamo ancora nulla di ufficiale sulle nuove decisioni prese dal governo attuale, che a detta della ministra Trente e dei vari sottosegretari sta ragionando sull'ulteriore acquisto. Non lo sapremo nemmeno dalla legge di bilancio, perché come sapete la legge di bilancio mette dei fondi generali e sta poi alla difesa a dettagliarli entro aprile successivo. Per cui aspettiamo l'annuncio e in queste ore, proprio grazie alla polemica, se vogliamo, scaturita dalle parole del sottosegretario Tofalo, la difesa ha ulteriormente segnalato che una decisione verrà presa a breve e verrà segnalata inizio gennaio. Quello che è sicuro è che al massimo si potrà davvero parlare solo di rimodulazione, di riduzione, perché da un lato ci sono contratti già siglati per circa 25 aerei e dall'altro è praticamente certo che l'unica possibilità per imbarcare aerei sulla porta aerea Cavour sarà quella di comprare la versione B degli F-35, però che almeno venga detto, che almeno venga sottolineato come decisione ufficiale definitiva. Infatti ti volevo fare una domanda un po' sulla base di quello che ci hai appena detto. Non c'è il rischio che anche sul programma di acquisto degli F-35 avvenga quello che è avvenuto con la TAP? Magari quando si è all'opposizione si dice no, non li vogliamo, lo cancelleremo, poi ci si rende conto che però sono già stati presi degli impegni dai quali non si può tornare indietro. Beh, dipende in tutto questo dalla forma con cui si portano avanti certe lotte, certe battaglie. Noi abbiamo sempre fatto partire la nostra contrarietà e i nostri punti di vista a partire dai documenti ufficiali, a partire dalle analisi ufficiali e tenendo conto di quello che stava succedendo, quindi non solo ripetendo, come dire, a pappagallo un no, ma tenendo conto che appunto se già ne ho comprati alcuni, già alcuni sono stati consegnati, ovviamente il no potrà riguardare solo quelli in cui le decisioni successive entrano in gioco. Il sospetto, e non solo il sospetto se vogliamo, è che invece quantomeno una parte del Movimento 5 Stelle abbia un po' usato la questione F-35 più come un feticcio, come dire, per raccogliere consenso che come una vera battaglia politica. In questo senso delle dichiarazioni recenti del sottosegretario Tofalo sono due gli elementi che davvero mi lasciano un po' basito. Da un lato il fatto che lui dica grande tecnologia, non possiamo privarcene, senza sostanziali. Qual è la grande tecnologia? A che livello arriva? È sugli aeromobili o sul sistema di supporto logistico? Cioè che ci dia qualche elemento, se no come al solito bisogna fare atto di fede. E dall'altro quello che lui dice in questo suo passaggio, ah ma forse noi non abbiamo studiato abbastanza, bisogna guardare le carte, bisogna andare nel concreto. E anche questo mi lascia basito perché, ripeto, noi siamo abituati invece a lavorare in modo che tutte quelle che sono nostre posizioni, magari anche che partono ovviamente da una posizione ideale come quella del disarmo, poi vengono sostanziate nella concretezza. E mi fa specie che un ex parlamentare di 5 anni, componente del COPASIR, e che quindi avrebbe avuto tutto il tempo di studiarsi, non tanto e non sui nostri dossier, ma le carte ufficiali, fondamentalmente invece per 5 anni abbia ripetuto un no F-35 senza averlo studiato, senza aver approfondito. Questo lo ritengo quasi più grave della scelta di continuare in parte col programma, in un certo senso. Fino a questo momento quanto ci sono costati gli F-35? Ma le stime appunto devono essere prese un po' con le pinze, perché purtroppo noi abbiamo accesso solo ai dati ufficiali, spesso nemmeno a tutti, e alcune notizie le riusciamo ad esumere paradossalmente più da quello che viene pubblicato negli Stati Uniti che da documentazione ufficiale diciamo della nostra difesa. Tra la fase di sviluppo e le prime acquisizioni comunque noi stimiamo in almeno 4,5 miliardi quelli che sono stati i fondi già sicuramente spesi. Ricordiamo che la proiezione finale del solo acquisto oscilla tra i 14 e i 15 miliardi, se ovviamente verranno confermati gli ultimi profili d'acquisto per una novantina di aerei, ma che a tutto questo noi lo dobbiamo moltiplicare per 3 per la gestione e la manutenzione, perché non c'è solo l'acquisto, perché sennò sarebbe come comprare una bellissima Ferrari, metterla in garage perché non hai la benzina o i soldi per l'assicurazione o per il meccanico.